La casa è un diritto. Questo è il titolo dello speciale che abbiamo scelto. E può sembrare paradossale, perché attualmente in Italia non è un diritto, anzi è diventato sempre più un privilegio. Questo perché la turistificazione, la gentrificazione, il costante non allineamento dei salari alla media europea, anzi a una diminuzione dei salari, a una precarizzazione oramai in corso da decenni dei lavori, di qualunque lavoro, oltre alla turistificazione che quindi permette a chi ha il privilegio di possedere più case di affittare a costi maggiori un appartamento e ottenere profitti maggiori, con questo letteralmente spazzando via i corpi e la socialità dalle nostre città. Milano, Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo. Sono solo i nomi delle sono solo le città più grandi che ci sono sul suolo italiano e che sono tutte oramai quasi letteralmente soffocate da questa morsa che svuota i centri cittadini, li riempie di paccottiglie, li riempie di finzioni che fanno credere ai turisti che queste città siano vere e proprie Disneyland. La cosiddetta narrazione del turismo come petrolio d'Italia è una delle cose più tossiche che sia stata raccontata. Stesso discorso vale per la gentrificazione. Oramai in città, per esempio, come Milano o come Roma, i centri cittadini vedono i costi degli affitti alzarsi sempre di più e questo chiaramente provoca uno svuoto, un impoverimento del tessuto sociale già abbastanza dilaniato post pandemia. Per questo abbiamo intervistato tantissime realtà dal basso che lottano quotidianamente contro sfratti, turistificazione, gentrificazione. Abbiamo intervistato anche tanti studiosi e tante studiose che ci permettono di capire a fondo quali sono i parametri della vicenda e quali sono i contorni di questa crisi gigantesca. Buon ascolto. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e ben ritrovati. Oggi iniziamo una serie di speciali e di approfondimenti sulla crisi abitativa in Italia. E non sono solo, ma con me c'è Simone. Ciao Simone. Ciao e buonasera a tutte, o buonasera, buongiorno, insomma, a tutte e a tutti. Direi di introdurre, diciamo, un po' la tematica dello speciale. Che dici, Simone? Sì, parleremo del diritto all'abitare, il diritto alla Esatto, casa, esatto. diritto tecnicamente riconosciuto come diritto dell'uomo dall'ONU, ma che sostanzialmente in realtà è tutto tranne che un diritto fondamentale riconosciuto. Faremo questo viaggio lungo questo, diciamo, inferno dantesco nelle grandi città italiane, partendo da Napoli, passando per Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino e infine Bologna. E in questa prima puntata introduttiva che fa da prologo allo speciale, oggi abbiamo il piacere di avere come ospite i nostri microfoni Sara Gainsford. Ciao Sara, grazie Ciao, ciao. per essere qui con noi a Radio Quarre, siamo felici di ospitarti e sentire soprattutto la tua testimonianza. Faccio Grazie a voi. una tua breve presentazione perché Sara Gainsford è una ricercatrice indipendente, giornalista, collabora con L'Espresso e Il Manifesto, si occupa di temi sociali, con focus sulle diseguaglianze e sulle politiche abitative, fa parte della rete Set Sud Europa contro la turistificazione, ha pubblicato Airbnb Città Merce, pubblicato da Derive Approdi, ha scritto Dopo la gentrificazione, un quartiere laboratorio dalla crisi economica all'abitare temporaneo, scritto insieme ad Alessandro Barile e Barbara Brollo, e poi ha pubblicato Abitare Stanca. Simone, parti tu con la prima domanda. Sì, io partirei dalla fine, cioè quindi da abitare stanca, la casa come un racconto politico, perché vabbè, per molti aspetti che non penso rilevino molto, ma insomma mi interessa particolarmente. E ti vorrei subito chiedere, nella tua storia, cioè, quindi dicevo, ho rivisto la mia, quindi identiche sensazioni e sentimenti. Quindi possiamo dire, senza in realtà tema di smentita, che è de facto una storia collettiva, che però paradossalmente quasi ci si imbarazza a renderla, a parlarne, è come se ci fosse un sentimento di vergogna a esternare una situazione di precarietà abitativa. Sì, esatto, sì.